ad alta voce. Valerio Aprea legge La ricreazione è finita di Dario Ferrari. Il toto dottorato. Ci scommettevo regolarmente, ma le dinamiche universitarie mi sono sempre state così oscure che non mi sono mai nemmeno avvicinato a piazzare un nome vincente. Scorro i candidati, saranno 7 o 8. Così pochi? Chiedo. Questi sono soli papabili. Si va da una quotazione minima di 2 per tale camasta a un massimo di 25 per gli ultimi 2. Questi chi sono? L'ultimo è Giacomo Mattei, te lo ricordi? No. Ma sì, dai, sarà la 12ª volta che tenta il dottorato. Quello con gli occhiali da pentapartito che dice d'aver scritto un dizionario manganelliano ma che non trova chi glielo pubblica. Come no? Quello che andava ai campi estivi dove si parlava solo latino, ma con la pronuncia restituta. Faccio un sorriso e glisso. E l'altro? Sono i vari ed eventuali, quelli che nella lista non compaiono, ovvero quelli che obiettivamente non hanno speranze. Ma bisogna sceglierne uno? No, si possono prendere in blocco. Allora, quasi quasi. È una scelta suicida. Se qualcuno può vincere, stai tranquillo che io lo so. Aspetta, fammi dare un'altra occhiata. Scorro gli altri nomi in lista. Li conosco quasi tutti. 10 anni passati all'università, del resto, qualcosa dovranno pur lasciare. Tolto Giacomo Mattei, che non ha speranze per definizione, gli altri sono tutti fior di studenti. Gente che si è laureata in tempo, che ha collezionato 30 lode, ha approfondito, letto molto e fatto l'Erasmus alla Sorbona o a Tubinga. Gente a cui 30 anni fa avrebbero tenuto un posto in caldo all'università prima ancora che discutessero la tesi di laurea. E oggi invece te li ritrovi a battersi per le briciole e tra qualche anno, se va bene, a insegnare italiano e storia nella Bassa Padana all'Istituto Professionale Germano Mosconi, dove si parla in dialetto, si intercala a bestemmie e i professori sono il gradino più basso della gerarchia sociale e umana. E magari andranno a scuola col Kalashnikov il giorno che scopriranno che anche il preside scrive Po con l'accento. Chi è questo prescelto, Camasta? Lo conosco? No, la conosco poco anch'io. Com'è che la dai a 2? Cos'è, una normalista sotto anfetamine? È una di Bologna, la pupilla del Savoia. Ovvero? Dai, lo hai pure portata all'esame. L'esperto di Pirandello. Ah, ma certo, uno nessuno e meno uno di Giovanni Savoia. Non l'ho mai letto, con quel titolo lì dubitavo che potesse dire qualcosa di intelligente. Invece è un grande libro. Quello è uno che lo invitano a Stanford una volta l'anno e tra le altre cose è amico fraterno di Raffaele. Invece Pierpaolo, perché non lo dai dentro per certo? Lui si acciglia. Pierpaolo è un normalista che Sacrosanti stima molto e obiettivamente sembra strano che non sia un predestinato. Secondo me sceglierà di fare il dottorato in normale invece che in dipartimento. Insomma, vabbè, ho capito. La Camasta è la puntata più scontata. Quanto punti? 10 euro. Ma li metto su Giacomo Mattei. Secondo me, questo è l'anno dell'underdog. Tornato da Pisa, vado a mangiare da mio padre, cui spetta, da accordi post-separazione, una cena alla settimana, l'unica in cui non mangio a casa con mia madre o una pizza con qualcuno, ovvero quella in cui mangio male. Lo so che alla soglia dei 30 anni dovrei essere un po' più autonomo, ma con la mia situazione professionale non è possibile mettere in conto spese un affitto da pagare. Se tutto va bene, d'inverno in un mese metto insieme 50 euro il sabato sera, facendo il cameriere nel ristorante dove lavora il mio amico Franz. 50 euro una domenica su 2 nel turno del pranzo, da quando il padrone ha fatto l'abbonamento allo stadio e quindi se il Viareggio gioca in casa non va a lavorare, un centinaio di euro al mese di ripetizioni di italiano a qualche ragazzetto delle medie i cui genitori sono così disperati da non potersi permettere un professore vero e ripiegano su di me che prendo 12 euro l'ora e vado a fare lezione a casa loro non avendone una mia. E infine qualche soldo variabile per tenere aggiornato in triplice lingua, italiano, inglese e un tedesco assai creativo, il sito di una ditta locale che produce tessuti costosi e ha ambizioni internazionali. Un lavoretto che io chiamo copywriting per darmi un tono, a mia volta, internazionale. Totale, difficilmente arrivo a 500 euro al mese. Per fortuna, quasi tutti in nero. Stasera, però, devo riconoscere che mio padre non è nella sua forma peggiore. Abbiamo quasi finito di mangiare il pollo con le patate che ha preso in rosticceria, inzuppandolo in montarozzi di maionese e bevendo Moretti, e lui ancora non ha affrontato nessuno dei suoi cavalli di battaglia. Come sono vestito, il fatto che non faccia nulla dalla mattina alla sera, il fatto che non voglia andare a lavorare con lui al bar, qualche importante traguardo raggiunto da un mio coetaneo, di solito figli di amici suoi, che sospetto gli raccontino un po' di cazzate, che però mio padre si beve come oro colato perché gli confermano che a lui è toccato l'unico figlio debosciato della provincia di Lucca. Non aver toccato questi argomenti significa che abbiamo mangiato praticamente in silenzio, non avendo molti altri temi di conversazione. Però ho la sensazione che la nostra sia stata una serata padre-figlio tutto sommato accettabile e provo per lui una qualche remota forma di affetto, non fosse altro perché credo che abbia finalmente cambiato rosticceria. Forse adesso che abbiamo raggiunto entrambi una certa età, possiamo cominciare ad avere un rapporto più maturo. Decido addirittura di comunicarglielo in qualche modo. Oh, lo sai che il pollo era buono? Che vorresti dire? Chiede sospettoso. Nulla, che era buono. L'ho preso in rosticceria, mica l'ho fatto io. Lo so, ma era più buono del solito. Accompagno il commento con un sorriso, come a voler sottolineare che non sto scherzando, ironizzando, provocando o applicando chissà quale altra artata tattica di aggressione dissimulata, ma solo facendo un banale convenevole come fanno le persone normali quando condividono un pasto. Lui però non sembra fidarsi delle mie intenzioni pacifiche e credo che i motivi siano due. Il primo è che noi una conversazione normale non ce l'abbiamo praticamente mai avuta. E il secondo è che i sorrisi non sono il mio forte. Sospetto che sia perché li faccio di proposito, dato che non mi vengono spontanei, e quindi il risultato assomiglia a un ghigno o, nel migliore dei casi, a una paresi. La Roberta è in ferie, dice, poi fa una pausa. Comunque, è vero che è buono questo pollo. È fatta al mattone invece che allo spiedo. Questo suo diffondersi in dettagli superflui mi stupisce ancor più del cambio di rosticceria. Si alza per togliere i piatti e i cartocci di stagnola e torna a tavola con due ciotole, due cucchiaini e una vaschetta di gelato artigianale. Adesso è il mio turno di essere sospettoso. Sono disposto a credere che voglia condividere con me i suoi giudizi sulle pollerie viareggine, ma che invece di prendere la vaschetta bigusto, cioccolato e crema dell'Esse Lunga sia andato in gelateria senza un secondo fine, mi sembra francamente implausibile. Mi chiedo quale pillola amara debba addolcire questo gelato. Le ipotesi che mi vengono in mente sono due. La prima è che mi debba notificare una malattia. La sua mansuetudine durante la cena può essere un indizio a favore di questa ipotesi. Stava provando a rassegnarsi all'idea di lasciare un mondo imperfetto e un figlio ancor più imperfetto e a godersi quei piccoli piaceri che nella sua vita si è sempre negato. Cambiare rosticceria, mangiare un gelato artigianale, non insultarmi. La seconda ipotesi è che mio padre si sia riaccompagnato, come dicono gli anziani in amore, che a quasi 70 anni gli sia tornato a battere il cuore e adesso stia per annunciarmelo, magari con qualche parola impacciata che mi metterà terribilmente in imbarazzo con lui. Mi chiedo chi possa far battere il cuore a mio padre, a parte l'Inter di Herrera e, un po' meno, quella di Mourinho, ma soprattutto mi chiedo a chi mai possa far battere il cuore mio padre, che se in passato può essere stato piacente, ormai mi sembra poco più di un vecchio scorbutico con un mefistofelico alito da MS, nonostante almeno ufficialmente non fumi da 20 anni. Forse, mi dico, una badante del fu patto di Varsavia, una donna cresciuta nel socialismo reale e sfuggita a una società patriarcale fatta di uomini violenti e perennemente gonfi di vodka, mi sembra l'unico tipo umano a cui mio padre possa sembrare un buon partito. Indizi a favore dell'ipotesi romantica: rasatura fresca, odore in casa passabile, interesse per la differenza tra pollo al mattone e pollo allo spiedo. Il gelato sarebbe ancora più buono del pollo, ma lo ingurgito con la testa incassata nelle spalle in attesa che mio padre cali l'asso di bastoni. E invece mangiamo in silenzio e io sono a tanto così dal prendere l'iniziativa e dirgli che è malato o innamorato. In ogni caso, una cosa grave. Invece, alla fine, mi trattengo. Qualche altro giorno di incoscienza non potrà farmi male. «Oh, aspetta un attimo», mi dice quando sono praticamente uscito e ho già la giacca indosso e il casco in mano. «T'ho preso questo», dice consegnandomi un sacchetto di carta di una libreria. Più che una libreria, è un supermercato per libri, ma sono troppo sconcertato per sottilizzare. «Mi ha fatto un regalo». Segno che la cosa è probabilmente ancora più grave di quanto pensassi. Un regalo pesante, constato, prendendo in mano il sacchetto. Ma, balbetto guardandolo non so bene come. Non concludo la frase ed estraggo dalla busta il librone. Titolo: 954 addetti alla accoglienza e vigilanza. Concorso del Ministero dei Beni Culturali. Resto perplesso. Poi, prima ancora di capire, sento salire la rabbia. Cos'è sibilo? Mio padre non ha mai azzeccato un regalo in vita sua, ma questo è un capolavoro di manipolazione travestita da dono. È uno dei quei libri per preparare i concorsi. C'è una parte con le cose da studiare e l'altra con le crocette. Che concorso? Del ministero, boh, di un ministero. Basta il diploma per partecipare, però è a tempo indeterminato e tutto il resto. Quale resto? Ma che ne so, lo stipendio, per esempio. M'ha detto Piero che c'era questo concorso che, sai, la sua figliola lavora a Roma al ministero, fa la dirigente, o che so io. Oh, pensavo di farti un piacere, visto che non vuoi venire a lavorare al bar. Devo fare il guardiano del museo? Passare la giornata in un corridoio vuoto, a fissare il nulla, a dire ai bambini di non scaccolarsi sui quadri? Devo staccare i biglietti per tutta la vita? Secondo te? Ho studiato per questo. Se ora studiato è che a te ti fa schifo lavorare e sei anche un presuntuoso, che pensa che i lavori che fanno le persone normali siano da sputarci sopra. Mio padre è entrato, forse per la terza volta in vita sua, in una libreria, e non per comprare la mia opera prima e rendersi conto di avere un figlio di genio, ma per prendere un librone da 40 euro sperando che almeno un posticino fisso da guardiano di musei deserti sia alla sua, cioè alla mia, portata. O addirittura che una capitolazione anche a quel concorso possa spianare la strada al mio subentro nella gestione del bar. Non ci penso nemmeno, dico con astio. Perché te ha sempre pensato d'averci pisellino d'oro? Deve fare l'intellettuale lui? Sì, faccio l'intellettuale. E allora chi pensi che te le dia i soldi per fare l'intellettuale a vita a te? L'università! Ah, ora l'università ti paga. Hanno deciso di pagare le comparse fisse. A gennaio comincio il dottorato, sparo. E sarebbe... sarebbe che l'università mi paga uno stipendio per continuare a studiare. A te, a me proprio, è il primo passo per diventare professori universitari. Mio padre non ha sufficiente dimestichezza con il mondo accademico per poter fare obiezioni e credo che per un attimo gli abbia sfiorato il cervello l'idea che forse mi sottovaluta. Quell'ipotesi gli dura una frazione di secondo e sono sicuro che subito dopo deve aver cominciato a pensare che il dottorato, che glorificherebbe senz'altro se lo facesse il figlio di chiunque altro, deve essere una cosa di valore pressoché nullo. Io però non gli do il tempo di ribattere e in un attimo sbatto la porta e scendo le scale 4 a 4 fino al portone. Farò il dottorato, penso, mentre spedalo la mia Vespa pick-up sperando che una volta tanto parta al volo in uno stato di rabbia, esaltazione e totale scollamento dalla realtà. Il problema è che se Carlo mi dovesse quotare al toto dottorato, dovrebbe darmi a 40, ovvero assai più di quanto pagherebbe la già inverosimile vittoria di Giacomo Mattei, che dalla sua ha quantomeno una solida esperienza di concorsi di dottorato a cui è stato segato. Non c'è una sola delle variabili in campo che possa giocare a mio favore. Dal curriculum agli sponsor accademici, dall'avvenenza agli agganci politici, dalle relazioni personali all'età, non esiste obiettivamente alcun motivo per scegliere me anziché chiunque altro. E però ormai sono committed, come si dice a poker. Anche se le carte che ho in mano suggerirebbero prudentemente di mollare, ormai ho puntato così forte che non conviene più passare. Tanto vale tentare la sorte, per quanto improbabile. Mi sono esposto troppo e tanto peggio con mio padre per permettermi di chiamarmi fuori. Quindi mi rimetto a studiare, pur essendo consapevole che non è pensabile recuperare il gap accumulato in un decennio di letture asistematiche e per lo più ormai dimenticate, versus i percorsi accademici impeccabili, ricchi e ben organizzati dei miei avversari. L'unico vantaggio di provare il concorso di dottorato è che mi risolve almeno temporaneamente il problema dell'eccesso di tempo libero. Nel periodo che ho dedicato alla preparazione dell'esame, sono riuscito a rileggere la mia dignitosissima tesi di laurea, ripassare qualcosa sul manuale di letteratura italiana ACA Il Ferroni e tentare di decifrare i miei appunti per l'esame di letteratura italiana contemporanea che ho dato con Sacrosanti. Se poi andrà male, mi attesterò sull'alibi standard. Alla fine vincono sempre i raccomandati.